nostri innamorati attaccano Milano. Ed ora stai ferma sull'altalena che ti insegna a crescere. In 17 secondi, 17 labirinti nel dolore, che guarda le bolle di detersivo sul fiume di Natale. E sui gradini della scuola elementare c'è una foto di un arcobaleno che si fuma una sigaretta usata. E tu la guardi, sorridi e tossisci. Un tiro di dolce dolce aria di Berlino. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sui miei pullover anni 60. E butto via i mozziconi di tacco sotto un piccolo cielo nero chiaro svedese. L'alba è un Black and Decker, il tuo corpo il planetario. Ho 10 raudi nella tasca e 10 tonalità d'azzurrino sotto gli occhi e secchi di limoncello, secchi di sera da tirare sulle mie pareti fluorescenti di Nord Africa. Vendessi cieli nuvolosi, pagami in contanti di tempere pesanti. Bluette. Edifici infiniti.